Inseguo lo strangolatore sulla Wabash, angolo bambino. Getta la pistola! È finita lei! Figlio di puttana! La pagherai per questo! Mi vendicherò contro di te e mi vendicherò contro Eddie! Non potrai mai sfuggirmi! Sentiamo i tuoi morti. Morti smel deve accordare la voce. Adele porte guasse gembela. Sacuse te a me tua de morte. Adele porte guasse gembela. Thank you. amici. Nessuno vuole giocare con me. Oh oh, in me hai trovato un amico. Ehi, coraggio. E tu chi sei? Io sono Tipo Bello. Sono appena uscito dal circolo Tipo Bello. E fino alla fine tuo amico sarò. Davvero? Vuoi dire che sarai mio amico per sempre? Certo che lo sarò. Oplala! Io questo l'ho già visto. Allora, Tipi Belli, termina così per oggi il nostro spettacolo Tipo Bello. Ma non cambiate canale, perché c'è un importantissimo messaggio del nostro Tipo Bello proprio per voi. Salve, Tipi Belli. Ho una notizia sensazionale da darvi. Finalmente potrete avere un pupazzo Tipo Bello tutto per voi, proprio così. Le avventure che vi facciamo vedere in televisione potrete viverle realmente a casa vostra. I Tipo Bello sanno tre frasi diverse e sappiamo anche girare la testa e strizzare l'occhio quando parlate con noi. È vero, Oscar? Ciao, mi chiamo Oscar e fino alla fine tuo amico sarò. Oplala! Wow! Ogni Tipo Bello ha un nome tutto per sé, perciò sarà il vostro migliore amico tutto per voi. Allora, ricordatevi di dire a mamma e papà che volete Tipo Bello. È l'ideale per il compleanno o per qualsiasi altra occasione. E ricordate bene, potete comprare anche tutti i nostri meravigliosi accessori Tipo Bello. Vero, Oscar? Verissimo! È una novità esclusiva della Giochi Amici, produttrice di Tipo Bello e di altri splendidi giocattoli. Vi aspettiamo nei negozi di Chicago e dintorni. Mammina, forza, svegliati! Mammina! Mammina, vuoi svegliarti o no? Mammina, svegliati, dai! Oh, Andy. Dai, svegliati, mammina! Dai! Le 6:30. Svegliati! Sono le 6:30 del mattino. Ma guarda, fuori c'è una bellissima giornata, non vedi? Hai ragione, sì. Ehi, buon compleanno, da quanto sei in piedi? Da un sacco di tempo. E ti ho portato anche la colazione a letto, guarda. Oh, sul serio? Oh, santo cielo. Oh, grazie. Oh, sì, questo sembra davvero squisito. Sai che ti dico? Credo che lo assaggerò quando mi alzo, d'accordo? Ma prima devo darti subito il tuo specialissimo bacino pancino di compleanno. Vieni qua. Dai, dai, vieni qua. Forza! Ecco, questo è il primo. Allora, quanti anni compi oggi? 2? No. Buon compleanno, bambino mio. Grazie. E adesso possiamo aprire i miei regali, mammina? Certo che possiamo. Oh, fantastico! Buongiorno, qui Chicago. Notizie dell'ultima ora. Charles Lee Ray, il famigerato strangolatore del lago, è rimasto ucciso in uno scontro a fuoco poco prima delle 3 di questa mattina sulla Wabash Avenue. Posso aprire subito questo, mammina? Allora hai detto sì! Andy, non vorresti cominciare col pacco più piccolo? E va bene, aprilo pure. Allora, che ne dici? Hai proprio bisogno di vestiti nuovi. Credo che ti andranno a pennello. Dovremmo solo accorciarli di 3-4 centimetri. Ma che ti prende? No, niente. Oh, sì, lo so, vuoi dei giocattoli, certo. Non degli stupidi pantaloni. Apri quest'altro. Allora, che ne dici? Ma io voglio anche Tipo Bello insieme a questi. So quanto lo desideri, Andy. E il prossimo mese cercherò di risparmiare abbastanza per comprartelo. Karen! Ciao! ciao. Sai quel pupazzo che volevi prendi? Quello che costa 100 dollari. Sì, tipo bello. C'è un ambulante giù nel vicolo, dietro al negozio, e credo che ne abbia uno. Cosa? Che ci fa un ambulante con un bambolo? Porta, afferra il portafoglio e andiamo. Può essere un affare. Ma come faccio a lasciare il banco così? Vuoi quel benedetto pupazzo o no? Certo che lo voglio. Allora vieni. Vieni. Sì, d'accordo. Eccolo là. Su, le faccio vedere. Allora, è tipo bello o no? Sì, è lui, è lui. Vedi, te l'avevo detto. E quanto vorrebbe per questo? 50 carte. 10, bene, un centesimo di più. 30. Ah, ma cos'è? Vuole scherzare? Quel coso non vale 30 dollari. Prendere o lasciare, lo comprerà qualcun altro. No, lo prendo io. Karen, è troppo caro. No, invece, non hai la minima idea di quanto lo desideri. Ma non sappiamo neanche se funziona quel dannato coso. Ecco, signora, che porti a lei e a suo figlio tanta felicità. Grazie. Ehi, aspetti, scusi. Chi ci assicura che quel dannato coso non ha rubato, eh? Ah, rubati questo. Ah, per me puoi rubartelo da solo. Meglio. Credo di aver fatto colpa. Sbrigati, dobbiamo tornare al lavoro. Ah, mi piacerà un sacco. Signora Barclay, è carino farci visita. È stata gradevole la pausa. Signor Criswell, ho perso solo un minuto. Un po' di cuore, Criswell. Il tempo di comprare un regalo per il compleanno del suo bambino. Ci sono pause ad orari precisi per sbrigare quelle faccende, signora Peterson. La signora Howe è in malattia e stasera siamo a corto di personale. Sarà lei a sostituirlo. Come faccio? Devo prendere mio figlio alla scuola materna fra un'ora. Mi dispiace, è un caso di emergenza. Scusi un attimo, resto io al suo posto. Signora Peterson, lei si occupa di calzature e non di bigiotteria. Dovrà restare la signora e basta. Potrà andare via alle 5, ma dovrà essere di ritorno alle 7. Ma è il compleanno di mio figlio. Signora Barclay, ha ancora voglia di lavorare qui da noi? Ma certamente. Allora le consiglio di fare... Ehi, nervi a posto, capito, Walter? Eh? Stasera baderò io, Andy, se no, vuoi. No, Maggie, non devi sacrificarti. Non dire sciocchezze. Sarà l'appuntamento più eccitante degli ultimi mesi. Non riesco a immaginare il perché. Ehi, dove stai correndo? C'è tipo bello alla televisione. Ah, sì, ma penso di avere qualcosa che ti piacerà di più. Che cos'è? Non è roba del droghiere. Allora? È tipo bello! Ero sicuro che tu me lo compravi! Perché non mi fai vedere come funziona? Ciao, io mi chiamo Andy. E tu come ti chiami? Ciao, mi chiamo Chucky. E fino alla fine tuo amico sarò. Oplala! Per bacco, è veramente straordinario. Oh, mamma, grazie! No. Tesoro mio, figurati. Ser Jimmy, tu sei bello e spacciato. Sarò libero come il vento che m'accarezza il naso. Perché in questa bottiglia, Ser Jimmy, tu prenderai il mio posto. Vedi? È così che si costruiscono gli oggetti. Dell'ultima ora. Eddie Caputo, il presunto complice di Charles Lee Ray, è appena scappato dal distretto di Michigan Avenue. Ulteriori particolari nel prossimo notiziario delle 9. Ehi, Chucky. Tu non mi stai guardando, però. Vieni con me, nanerottolo. Passa di qui. Ehi, ciao, ti va di giocare? È ora di andare a nanna, Andy. Non avevo mai visto quel buffo piccoletto prima d'ora. Forza, Chucky. Adesso dobbiamo prepararci per andare a letto. È un clandestino. Non sono affatto un clandestino. Mi ha portato qui Mr. Go. Ah, sì, ma chi sarà veramente questo Mr. Ethel? Parla, moccioso. Lo conosci? Sia Maggie. Chucky vuole restare ancora in piedi per guardare il notiziario delle 9. Ma sì, naturale. Forza, piccolo, a letto di corsa. Andiamo, si va a nanna. E Chucky? Oh, sì, Chucky. Anche tu. Andiamo tutti a nanna. Adesso ti lavi bene i denti e poi ti infili subito sotto le coperte. Va bene? D'accordo? Bravo. Allora, chiamami quando sei pronto, ti rimbocco le lenzuola. Ehi, Chucky, vuoi che ti faccia vedere camera mia? Andy, ti stai lavando i denti? Sì, c'è Maggie. Bravo. E ora il nostro notiziario delle 9. Oggi a Washington il sindaco ha replicato che esaminerà attentamente le conclusioni del congresso e presenterà una serie di proposte alla commissione sul fenomeno della violenza organizzata. A te la linea, Steve. Grazie, Terry. Passiamo alla cronaca. La polizia ha fornito ulteriori particolari riguardo alla fuga di Eddie Caputo. Le autorità dicono che Caputo è riuscito a deludere la sorveglianza dei suoi custodi mentre veniva trasferito in tribunale. Il giudice... Allora, signorino, cosa sarebbe questa storia, eh? Di quale storia parli? Vieni, forza. Tesoro, devi imparare che quando la zia Maggie dice una cosa, è quella. Ma cosa ho fatto di male? Lo sai benissimo di cosa parlo. Hai acceso la televisione e hai messo Chucky seduto là davanti mentre ti avevo detto che era ora di andare a dormire. Ma non sono stato io. No, no, è stato Chucky allora. È andato in soggiorno e hai acceso la televisione tutto da solo? Sei tu che l'hai accesa, Chucky. Andy, smettila. Forza, sotto le coperte. Svelto? Ma zia! Vai sotto le coperte. Non voglio sentirti neanche fiatare. Ma non sono stato io a mettere Chucky davanti alla televisione. Shh. Adesso basta, d'accordo? Dammi un bacino. Buonanotte, piccolo. E buon compleanno. Buonanotte, zia Maggie. Te l'avevo detto che si arrabbiava un sacco se guardavo il notiziario delle 9. Andy. La tua vita sarebbe in pericolo. Partirò all'alba. Non ti lascerò andare via da solo. Hai bisogno di me. Passeremo insieme la frontiera. Non insistere, James. Il distacco già è abbastanza doloroso. Andy, sei stato tu. Com'è andata? Come sta Andy? Karen? Sì, sono io, ma è successo qualcosa? No. No. Va tutto a meraviglia. Ma ne sei sicura? Dalla tua voce non si direbbe affatto. No, è che mi ha preso un po' di fifa star sola qui di notte, capisci? Ma tu smettila di preoccuparti. E dà un bel calcione nel sedere a Criswell da parte mia, eh? Senz'altro. Ehi, senti Maggie, grazie ancora di tutto. Sei una vera amica. Ah sì? Eh sì, sì. Dà un bacino a Andy anche per me, d'accordo? Ciao, ci vediamo dopo. Centrale comunica quei dati. Hai scattato le foto? No, io non sono lei in fucile. Io torno al distretto. Tu aspetta un po'. No, le telecamere non possono salire. Aspetta. Era al sesto piano. Ci sono un sacco di vetri là fuori. Raccontami tutto. Ha fatto un volo incredibile, come se l'avessero sparata dalla finestra. Davvero? Sì, sì, è venuta giù come una cannonata, una vecchia macchina. Già, non ha proprio avuto fortuna. Già. Ehi, un momento, ferma. Signorina, dove crede di andare? Io abito qui. Andy! Sì, abbiamo... Oh no! Andy! Andy! Ok, ok. Andy! No, mamma! Dio sia ringraziato! Ma tu stai bene? Oh, che sollievo, ero così terrorizzata quando... Ma cos'è successo? Dov'è Maggie? La zia Maggie stasera ha avuto un incidente. Un incidente? Che tipo di incidente ha avuto? Signora Barclay, sono l'investigatore Mike Norris dell'omicidi. Potrei parlarle un momento in corridoio. Allora, mi accompagni. Perché? Cos'è capitato a Maggie? La prego. Chissà quando finiamo. Allora, aspettami qua. Tu sei sempre il solito. Ah, scusa, chi te l'ha detto? Non vedi come stanno andando le cose qui? Tu, avanti, sbrigati. Volevo dirle, signora Barclay. Che cosa? La signorina Peterson è morta, signora Barclay. Cosa? E come? È caduta dalla finestra della cucina. Oh, oh no! Si sente bene? Sì. D'accordo. Venga. Credo di sì, è meglio prenderlo. Maggie. Coraggio. Maggie. Dica, hai controllato? Sì, tutto. Ancora qualche minuto. Oh! Oh, oh, Maggie. Lei ha idea di cosa siano questi? Anche questo può servire. No. Sembrano impronte di scarpe, no? Impronte di scarpe piccolissime. Che cosa vuole insinuare? Non lo so. Perché Andy sarebbe salito su quel bancone? Cosa? E poi ho già controllato nel suo armadio. Nessuna delle sue scarpe corrisponde alle impronte. Mammina! Mammina, c'è chi vuole sapere cosa sta succedendo qua dentro. Andy, vai subito a letto. Io e il signore siamo molto occupati. Ma mammina! Neanche una parola, per favore. Andy? Che scarpe hai ai piedi? Sono scarpe da ginnastica tipo ballo. Oh, cavolo. Vieni qui. Mi fai vedere la parte sotto? Sì, certo. Oh, ma guarda, una pistola. C'è un cappello da cowboy. Andy, va a letto subito. Fra un minuto vengo a darti la buonanotte. Mamma! A letto, di corsa! Perché tratta Andy a quel modo? È inutile che lei continui a tormentarlo, lui non sa niente. Signora Barclay, qualcuno ha lasciato quelle impronte, se non è stato Andy chi... Non lo so, e non mi importa. So solo che ho perso la mia migliore amica per un orribile incidente. E vorrei restare in pace con mio figlio, che sarà sconvolto quanto me per quello che è appena capitato. D'accordo, mi dispiace, sul serio. Manderò subito via di qui tutta questa gente, d'accordo? Allora, ragazzi, avete finito? Andiamo. Via, via, andiamo via tutti. Fuori di qui. Forza, ragazzi, andiamo. Perché pensi che le mie scarpe da ginnastica erano così importanti, Chucky? Scommetto che non lo sai neanche tu, vero? Mi farà sapere se scopre qualcosa riguardo a quelle impronte. Mamma, mamma! Mamma, so chi c'era sul bancone Andy, della cucina. Chi c'era, Andy? No. Chi? Chucky! Il pupazzo. Andy, piantala con le tue storielle. Su, forza, rimettiti a letto. Hai capito? Ma mamma! Buonanotte, ispettore. Che c'è? Allora mi telefona? Lei non si arrende mai, vero? No, è che detesto le cose... E io detesto la gente che insiste troppo! Cavolo! Bel caratterino la signora. Come no? Voglio il rapporto sull'autopsia sul mio tavolo domattina presto. Sì. E tutto quello che riesce a sapere sulla signora Barclay e suo figlio. Come fatto? Posso fare qualcos'altro per lei, signore? Ma sì. Tieni, portalo al laboratorio. L'ho trovato in un angolo della cucina. E che cos'è? Probabile arma del delitto. No! Ehi, vuoi prendermi in giro? Ma sì, mi stai prendendo in giro. Sì, non lo dirò a nessuno. Un segreto fra noi due. Papà è stato buono a mandarti dal paradiso per giocare con me. Tu sei il mio migliore amico e staremo sempre insieme. Ma c'è mai chi non voleva e tu l'hai punita. Anche se mi dispiace, volevo bene alla zia Maggie. Andy, con chi stavi parlando? Con Chucky. Con Chucky, eh? Certo, sicuro, con Chucky. Guarda, è seduto proprio là sopra. E Chucky naturalmente stava parlando con te, vero? Che cosa ti ha detto? Un sacco di cose interessanti. Il suo vero nome è Charles Lee Ray. E dice che è stato mandato da mio papà dal paradiso per giocare con me. Oh, ma no. Davvero, Andy? E ti ha detto nient'altro? Sì. Ha detto che la zia Maggie era una vera strega e ha avuto proprio quello che si meritava. Andy, come fai a dire una cosa così orribile? Non sono stato io, è Chucky che l'ha detto. Andy, vuoi smetterla? Sai perfettamente che stai inventando un mucchio di stupidaggini. Ma non è vero, Chucky è vivo, sul serio è vivo. Andy, guarda qui. Chucky è un pupazzo. È fatto di plastica e di imbottitura. Guardalo un po', guardalo bene. Ha l'aria forse di essere qualcos'altro, eh? No, lascialo, gli fai male. Andy, guardalo. Non crederai sul serio che Chucky sia un essere vivente, no? Andy, smettila! Per favore! È per quello che è successo alla zia Maggie che mi stai sgridando così forte, vero mamma? Sì. Sì, credo di sì. Mi dispiace molto. Devo smetterla di inventarmi sempre un mucchio di storie. Grazie, campione. Vuoi dormire con me stanotte? No, Non importa, mamma. Io sto già con Chucky. Via, sotto le coperte. Buonanotte, tesoro. Ti voglio tanto bene. Avevi ragione, Chucky. Non ha voluto credermi la mamma. Ciao, mi piace essere abbracciato. Bene, anche a me piace abbracciarti. Ehi, sei sicuro di non essere sconvolto per stanotte? E non hai fatto brutti sogni sulla povera zia Maggie? E Chucky è soltanto un pupazzo, naturalmente? Allora fila subito a scuola, ti voglio un sacco di bene. Forza, forza, siete in ritardo. Giù la casa di Eddie. Senti, tu resta qui. Io vado a fare un momento la pipì, eh? Aspettami che arrivo, Chucky! Chucky! Chucky! Sono corsa appena ho ricevuto il messaggio. Non è ancora andata a scuola a prendere suo figlio? No, no, vengo direttamente dal lavoro. Perché? Venga nel mio ufficio. È successo qualcosa, Andy? Prego. Allora, vede. Non so come dirglielo, signora Barclay. Dirmi cosa? Hai un'idea del perché tua zia Maggie sia caduta dalla finestra? Sì. Allora potresti dirmelo. Perché la zia ha visto Chucky e si è spaventata così tanto quando l'ha visto che è caduta giù. Ah, sì, davvero, eh? E allora perché Chucky è andato a trovare Eddie Caputo? Mamma! Oh, Eddie! Siediti qui, tesoro mio. Avanti. Ecco qua. Adesso ascoltami bene, capito? Nessuno mai potrà crederti sul tuo amico Chucky. Se non ti decidi a dire tutta la verità, senza altre storie, ti porteranno via subito lontano da me. Hai sentito, Chucky? Mi porteranno via subito se non dici qualche cosa per me. Ti prego, di qualche parola. Forza, Chucky, vuoi deciderti a parlare? Dimmi perché mi hai detto un mucchio di bugie. Forza, Chucky, di qualcosa. Parlami! Ciao, mi chiamo Chucky e fino alla fine tuo amico sarò. Oplala! Mamma, so che lo sta facendo apposta. Mi aveva detto di non parlare di lui a nessuno, sennò dice che mi uccideva. Signora Barclay, sono il dottor Armour. Lavoro all'ospedale della Contea. Credo di avere già visto più che abbastanza. Mi sembra il caso che Andy passi un paio di giorni lì da noi. Allora vuoi dire qualcosa, piccolo? Bastardo! Vuoi parlare, maledetto! Ciao, mi piace essere abbracciato. Vuole che tu sia il suo migliore amico. Sì, certo. Batterie comprese. Oh! Di parlare, capito? Come vuoi? Ti farò parlare io. Ti ho detto di parlare, maledizione, se no ti butterò nel fuoco! Stupida strega! No! Puttana schifosa! Ti insegno io a rompermi i coglioni! Insegno io a cercare di fregarmi! Barclay, come mai è tornata qui? Andy diceva la verità. Chucky è vivo e ha ucciso lui, Eddie Caputo. Che cosa? L'ho portato con me a casa. Stavo per buttare via il suo scatolone. Sono cadute a terra le batterie. Non capisce ancora. Si è mosso e ha parlato un giorno intero senza avere dentro le batterie. Ma che cosa sta dicendo? Ho scoperto anch'io che il pupazzo è vivo. Quando ho minacciato di buttarlo nel fuoco del caminetto, all'improvviso lui è diventato vivo nelle mie mani. Io l'ho lasciato cadere, lui si è alzato e sono scappata fuori. Buonanotte, signora Barclay. Aspetti un momento! Le sto dicendo la verità! Lui ha ucciso Maggie, ha ucciso Eddie Caputo. Senta, signora Barclay, capisco il suo atteggiamento. Mi creda, è atroce quello che è capitato qui oggi. ma con le falsità non potrà aiutare... Oh, falsità! Guardi, sono falsi questi! Come se li è fatti? Chucky mi ha morsa! Oh, Cristo santo, basta! E va bene, non mi creda! Dove va? A trovare Chucky! E come pensa di trovarlo? L'ho comprato da un ambulante vicino a dove lavoro, comincio da lì! Non è una zona raccomandabile di notte per una signora! Signora Barclay, ha sentito? Non vorrà andare laggiù da sola a quest'ora di notte! Cavolo, che pazzo! Ci fa quella ragazza questa? Ehi! Mi scusi! Di qua lei! Aspetti! Non voglio farle del male! Si ricorda di me? No, no! Mi scusi, da lei ho comprato un pupazzo dietro ai grandi magazzini Carson con la mia amica ieri. Pupazzo? Sì, un pupazzo tipo bello. Me l'ha venduto lei, se lo ricorda. Oh, sì, sì, un pupazzo. E cosa vuoi? Dove l'ha trovato? Cosa mi dà se glielo dico? Cosa? Ah, io... Non ho molto, ma le darò tutto quello che ho. Tenga. Ecco. Non è abbastanza. Cos'altro ha? È tutto quello che ho addosso. Tutto quello che hai? Che cosa non sta... è tutto quello sì. che hai. Scusi un momento. No, hai un sacco da... No, no. Vieni no. qui, lo sai. No, no, fermo. No. Ehi, porco. Cristo, è uno spiro. Bene, ragazzi. E voi altri che volete? Volete partecipare alla festa anche voi? Allora, vuoi rispondere alla domanda della signora, eh? Dove hai preso quel pupazzo? Io non so bel niente di nessuno. Tu non saprai più niente di niente se non me lo dici subito. Parla! In un negozio di giocattoli che si è incendiato sulla Wabash, lì l'ho trovato. Ecco. Togliti dai piedi. Che succede? Niente. Ehi, un momento. L'ambulante ha detto qualcosa che l'ha sconvolta. Che cos'era? Gliel'ho già detto, niente. Aspetti un momento! La vita di mio figlio è in pericolo! Che diavolo era? Il posto dove quel tipo ha trovato il pupazzo. Charles Lee Ray è morto laggiù. Chi? Lo strangolatore del lago, lo stesso uomo che era complice di Eddie Caputo. Oh, ehi, dove vuole andare? Sulla Wabash, angolo Bambino. Non c'è niente là, solo le rovine abbandonate di un negozio. Perché non mi crede? È stato colpito da un fulmine la notte in cui Charles Lee Ray è morto. Lei come fa a saperlo? Perché là c'ero anch'io. Sono io che ho ammazzato quel tipo. Perché non me l'ha detto prima? Non è proprio il genere di storie che si racconta volentieri. Andiamo ora, l'accompagno a casa. Ha bisogno di dormire. Non ha detto qualcosa? Non ha detto niente? Chi? Charles Lee Ray. Sì. Ha minacciato di uccidere me e Eddie Caputo. Mi dispiace che non abbia trovato niente per aiutare Andy. Mi dispiace sul serio. Ma non ha capito. Ho scoperto che Chucky è Charles Lee Ray. L'unica cosa che non so è come sia entrato in quel pupazzo. Buonanotte, signora Barclay. Dove abitava Charles Lee Ray? Scusi, per favore, le dispiace scendere dalla macchina. E a lei dispiace dirmi dove abitava? Ma non lo capisce ancora, la vita di Andy dipende da questo. 730 Stony Island, a sud della città, ma ho già perquisito quel posto laggiù, non c'è niente. Le auguro buonanotte. Aspetta un momento, dove sta andando? Vado a casa a dormire un po'. Ma non può andare via così. Oh, non capisce. È la sua vendetta. Chucky ha già ucciso Caputo, adesso tocca a lei. Ne ho abbastanza. No, la prego, mi ascolti. Fuori. Ma le sto dicendo la verità. Perché non vuole credermi? Perché sono sano di mente, signora Barkley, è in grado di ragionare. No! Ah. D'accordo. E va bene. Si ricorda cosa mi ha detto la prima sera nel mio appartamento? Che cosa? Che non le piacevano le cose in sospeso. Beh, anch'io sono in sospeso. Non può lasciar perdere quello che le ho detto poco fa senza controllare. Per l'ultima volta, signora Barkley, buona notte. E va bene. Cristo! Thank you. è potente da ammalà per la vita dopo la morte. Karen. Ma come mai è qui? Dopo aver parlato con te ieri sera, ho deciso di tornare alla stazione di polizia e ho preso il fascicolo Ray. Ho scoperto un paio di cosette. Il suo diminutivo era Chucky. E ha passato un sacco di tempo insieme a quest'uomo. Ora dobbiamo assolutamente trovarlo, prima che lo trovi Chucky. Salve, John. Sono qui. Ciao. Sono io, Chucky. Allora, che ne dici? Il gri-gri funziona? Sai, quando venivo qui a imparare tutta quella roba per sconfiggere la morte, pensavo sempre che mi prendessi un po' in giro. Ma adesso no. Non lo penso più. Ho solo un problemino. Quale? Questo. Credevo che nessuno potesse farmi male, ma ieri sera mi hanno sparato. E vuoi saperlo? Faceva male. Faceva un male fottuto e sanguinava anche. Come mai, John? Stai ridiventando umano. Cosa? Più tempo continui a passare in quel corpo, più la natura umana avrà il sopravvento. Significa che dovrò vivere per tutta la vita in questo corpo? No, col cazzo! Tu mi hai fatto finire qua dentro e tu mi tiri fuori. Questo non posso farlo, Jack. Perché no? Perché sei un essere abominevole. Un insopportabile oltraggio alla natura. Hai stravolto ogni cosa di ciò che ti ho insegnato, usandolo a scopi malvagi. Devi essere fermato subito! Sì! Immaginavo che tu facessi una sparata del genere. Ecco perché ho preso le mie precauzioni. Di che diavolo stai parlando? Ho qui il tuo mojo personale, John. Dammelo subito! Certo! Come lo vuoi, con una gamba rotta? Non dovresti mai rivelare ai tuoi clienti dove nascondi cose del genere, John. Perché vai sempre a cacciarti nei guai? Allora, come faccio a uscire da questo corpicciattolo? Non te lo dirò mai. Ah, sì? Oh! O parli o muori, John. A te la scelta. No, te lo dirò. Devi cercare di trasferire la tua anima dal pupazzo nel corpo del primo essere umano a cui hai rivelato la tua identità. Vuoi dire la prima persona a cui ho detto che ero realmente una creatura viva? Non posso crederci, c'è da morire dal ridere. La prima persona a cui ho rivelato il mio piccolo segreto è un bambino di 6 anni. Vorrà dire che tornerò ad avere 6 anni. Allora, John, è stato divertente. Ma adesso devo lasciarti. Ho un appuntamento con un bimbo che ha 6 anni ormai. E tu invece hai un appuntamento con la morte. Addio, John. Ferma! Un momento. Oh mio Dio! Troppo tardi. Cosa? Dovete salvare il bambino. Pronto, c'è un caso d'emergenza. Lui farà entrare la sua anima nel bambino, come è entrato nel pupazzo. Cosa? Bisogna fermarlo prima dell'invocazione. Uccidetelo prima che dica la litania. Ma come? In che modo? Al cuore. È la parte che lo rende quasi umano. Dovete trafiggerlo Non c'è altro modo. Proprio nessuno. Ma dottore, Jackie è qui! È venuto qui per uccidermi! Il dottor Ardmore è desiderato in accettazione. Ma Jackie è già arrivato ed è venuto apposta per uccidermi! È venuto per uccidermi, vi prego, non lasciatemi solo! Vi prego! Cercate nel corridoio nord! Sì, vado io! Calma, Andy, calma. Non è niente, va tutto bene. Questo non ti servirà più, d'accordo? Ma sì che mi serve, Jack! No! La mia camera è no, no, uccidermi. Andy, calmo, non aver paura. Ci sono qua io. E lo so io come devo proteggerti. Andy, calmati, piccolo, sta tranquillo. Qui nessuno ti farà del male. No, la prego! Ucciderà anche lei! Andy, sta buono un momento! No, la prego, ah. Mi ascolti! La prego! Andy, adesso sentirai la puntura del lago, ma solo per un secondo. Che è successo? Signora, mi scusi, se non le dispiace dovrei parlare un momento da solo con lui. Cosa? Sì, sì. L'ha brustolito ben bene con l'apparecchio dell'elettroshock e poi è scappato. Ah, è scappato? Ma dove? Oh, non sappiamo. Ma scommetto che lei lo sa. Chucky, hai visto Chucky da qualche parte? Come? Chi è Chucky? Quel pupazzo che il bambino aveva alla stazione di polizia, l'hai visto ma da qualche parte? Incredibile, ma che ne so io di quel pupazzo? Dove stai andando? Io ero seduta qui mentre lui passava. Credono che sia stato Andy. Lo so, la ragazzina ha detto che Chucky era qui e che stava cercando Andy. Sì, ma dove sarà Andy? A casa, forse, è lì che deve tornare quando è nei guai. Ha la chiave? È sotto il tappetino. Vieni, dai, non c'è tempo da perdere. Deve aver dimenticato il pupazzo in ascensore. Lascialo stare. Chiunque l'abbia dimenticato tornerà a cercarlo. Che brutta faccia. Vaffanculo. Forza, presto! Lorencello Santeria! Oia Shango! Yenyama Kumba! Dammi i poteri, ti scongiuro! Karen, prendi questa, prendila! Mike! corri! Senti! Ti prego, corri! Andy, no! Ti prego! Fino alla fine, amici saremo, ti ricordi? E la fine è arrivata, amico mio! C'è la cassetta del pronto soccorso. Dai, corri. Com'è andata? Oh, santo Dio. Chucky è morto. Mammina, Chucky è sparito. Andy, sbrigati! Andy! Che diavolo succede qui? No! Oh, ferma! Ehi. Karen! Qui c'è un agente ferito, arma da taglio, al condominio Brewster sulla North Grand Street. Fate presto! Saranno qui fra 10 minuti. Ma che diavolo è successo? Il piccolo aveva ragione. Il pupazzo era vivo. Per poco non ci ammazzava tutti. Ma di che cosa stai parlando? Non vuoi credermi? D'accordo, avanti, va a vedere in corridoio. I pezzi sono sparsi dappertutto, ma non toccarlo. Hai capito bene? Non devi toccarne neanche un pezzo. Va bene, non agitarti, d'accordo. Cerca di rilassarti un po', va bene. Allora, Mike, vorrei che tu dessi un'occhiata a questo coso, perché è proprio assurdo che quest'affare sia vivo. Ti avevo appena detto di non toccarlo. Mike, cerca di usare il cervello. Guardalo, se non è morto questo, è morto. No! Guardalo! Uccidilo! Uccidilo! No! Squarciagli la gola! Ammazzalo! Ammazzalo! No! Uccidilo! Forza! Strangolalo! Non mollare la presa! Ammazzalo! Lo distruggo. Uccidili! Ammazzali! Ammazzali! Al cuore! Tutti! Al cuore, spara! Chucky, ti va di giocare? Mi credi finalmente? Sì. Ma non so chi crederà a me. Andiamo. Pronti? Su, forza! Andy, forza. Vieni anche tu all'ospedale con Mike. Andiamo.